quello. Sono al centro della sala, che impone. Sono al centro della sala, mi vedi? Mi vedi dal centro della sala? Sono contornato da milioni di persone che si muovono, ballano, si muovono, non riesco neanche a sentirti. E a malapena vedo la vostra postazione. La vedo anche io adesso a malapena, proprio a malapena. Veramente spettacolare. Veramente entusiasmante. Questi ragazzi ripartono e noi siamo qui ad ascoltarli con i tramite Nartra radio Roma. Nartra radio. Siamo in diretta, sì, lo vedo qui anche sui schermi di Nartra Radio Roma online sul portale di Mille Mics, che stiamo direttamente in diretta e potrete ascoltare il prossimo concerto dei Just 22. Ora vi manderemo anche via Facebook e via le nostre vie, tutte le vie per arrivare alla nostra via, che è sotto casa di Andrea. Nartra Radio Roma è collegata, vediamo adesso i ragazzi di Sfumature che stanno preparando il prossimo live. Dopo i Dirac di Perugia, veramente strepitosi, che forse vi potrete riascoltare attraverso le registrazioni che abbiamo fatto qui a Nartra Radio Roma con Audacity. E un saluto anche alle altre radio che forse ci stanno ascoltando, Radio Ballarò, Over Radio, Reset Radio, Quanta Radio e tutte quante la radio, un'altra radio, Roma Radio. Qui Mr. Campo già sta all'azione qui a Facebook, vediamo anche davanti a noi Mr. Gaspo, intento a cercare gente tra pubblico per fare alcune interviste. Grande atmosfera qui al centro del locale del sotto casa d'Andrea. Mi trovo al centro del locale con un sacco di gente che mi spinge. Scusate, per favore. È pazzesco. Eccoci. Uno degli organizzatori di Sfumature è qui per Nartra Radio Roma questa sera. Mi sembra che questo evento in qualche modo stia funzionando e ha attirato gente. Beh sì, un po' di gente è arrivata, è il primo evento che abbiamo organizzato e tutto sommato è andato, insomma, siamo rimasti contenti. Però siamo sicuri che possiamo fare molto di più in futuro e ci proveremo sicuramente. Ma anche perché le collaborazioni tra le Net Label, le web radio e quant'altro sicuramente porteranno gente a un visuale diversa della musica. Sì, praticamente il nostro scopo è quello, insomma, di mettere in contatto tutta la gente che lavora nel settore, quindi noi come studio di registrazione conosciamo molte persone che lavorano nell'informazione riguardante la musica, quindi webzine, net label che producono, e cercheremo insomma di creare un bel circuito dove ci sarà tanta buona musica da ascoltare. Benissimo, grande cosa, sicuramente ripasso la linea in regia a Cocot, vai Cocot, ti lascio la linea. Ok, come avete sentito Mr. Gaspo, in mezzo alla gente, in mezzo al turbinio di persone, compresi i Dirac, che forse adesso stanno attrezzando qualcosa come un secondo tempo, o non sono i Dirac si sono dissolti, forse li avremo fra poco qui in intervista. E adesso qui davanti a noi, no davanti a noi perché noi abbiamo la postazione proprio alla destra del palco, ci sono, come vi ho detto, i Jazz 22, loro vengono da Roma e sono qui sotto casa di Andrea in diretta per voi, solo su un'altra Radio Roma. Mr. Campo, cosa ne pensi? Come va su Facebook e lo spannamento? Buonasera a tutti, finalmente eccoci qua, da sotto casa d'Andrea, poteva essere anche sotto casa di Sandro, per noi è indifferente. Ma anche sotto casa tua. Sotto casa mia. Splendido concerto organizzato da Sfumature, i due gruppi sono a sorpresa. Grazie Mr. Campo, lo vediamo che è pronto, adesso diamo subito la linea a Mr. Gasperino che ci sta portando qualcun altro da intervistare, vero Mr. Gasperino? Ecco una ragazza che si è presentata oggi qui per partecipare all'evento. Sì, va benissimo, vai. Le ragazze sono timide. Sì, sono emozionati, ma del resto dal palco sono pronti. Oh, dal palco sono pronti, riprendo la linea Mr. Gasperino, vuole parlare. Dovresti chiedere a Andrea. Una simpaticissima ragazza del pubblico che veramente fra poco uscirà dal locale presa dai buttafuori. Gli avevano rubato il microfono, l'ho recuperato, Cocot, tremendo. La capisco, senza il microfono qui in Altra di Roma siamo persi, è il nostro vibratore. Mi dica Mr. Camp, cosa da dire? Perfetto ragazzi, sta per cominciare la seconda parte del concerto. Eccoli a voi, eccoli Just 22, 22, 22! Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Mister Cagot è qui in console da solo, allontanato dagli altri, anche lui rimane qua da solo a farsi un bel drink, un bel trip da Nartara di Roma qui a Live Sfumature. Ma chi dobbiamo intervistare? Allora adesso intervisteremo direttamente dai studi di Nartara Radio Roma. Ecco l'intervista. Fabrizio Lloyd di Tommaso, l'illustratore fumettista che fa l'intervista. Eccolo qua. Mister Gaspo sta vicino all'intervistatore che è il fumettista che ha illustrato questa serata. Si chiama Fabrizio Lloyd di Tommaso, fumettista e illustratore. E sotto le note di Jay Ortega. Non ti permettere mai più, ma mai più. Allora adesso Mr. Campo timidamente si mette all'angolo e se ne sta zitto, ma adesso fra un po' ce ne andremo. Mr. Campo, un'ultima intervista e poi chiudiamo, un'ultima intervista e poi chiudiamo le tende, chiudiamo la capanna e mandiamo Gaspo a casa. Fra poco Gaspo intervisterà qualcuno. È arrivato la rotina, signore, scendete, ma non lo dice nessuno. È arrivata la rotina, è arrivata la rotina, signori, scendete. Prezzi modici, prezzi modici. Io mi chiedo, dopo una serata passata a non fare nulla, perché ridursi a fare un'intervista alle ore 1:39 vi pare una cosa normale? Nartara Radio Roma, con Ciccio distrutto e febbricitante, sta ancora trasmettendo solo ed esclusivamente scusa per Campo, voi, scusa che Campo, probabilmente Campo. Non ci siete. Scusa Campo, però dopo diciamo, potremmo anche dire che possiamo licenziare Mr. Gaspo, insomma alla fine è questo. Sono d'accordo pienamente a metà perché, con te. Perché stasera ha superato il suo limite, insomma, c'ha un limite, ogni DJ ha un limite. Quello che io mi chiedo è questo. Ma se l'intervista deve fargliela, ma adesso che cosa gli sta dicendo? Adesso si sta preparando il campo, sta facendo una pre-intervista, ma forse eccolo. Perché pensavo che l'intervista pre-intervistata durasse molto di più. Mister Gaspo, Federico Lloyd, Tommaso, come disse l'ultatese, va. Ok, perfetto. Eccoci che stiamo per andare direttamente in diretta con l'intervista, se non mi lego troppo con i figli, scusami, eccomi Fabrizio, eccoti qua. Allora, no, non è che siamo completamente legati. Allora, mi sembra che la serata in qualche modo di sfumature sia andata in porto e tra i vari artisti musicali si è pensato di portare altri due artisti. Uno di questi due lo abbiamo portato ai microfoni di questa web radio, che in qualche modo ama raccontare emozioni attraverso l'arte. Lui è un disegnatore e si chiama Fabrizio e lo fa per professione, quindi non è un disegnatore che tenta in qualche modo di piazzare una propria opera o un proprio quadro. Disegna a comando, insomma c'è qualcuno che scrive una storia e lui la disegna ed è anche importante poi disegnarla bene e in qualche modo stupire chi ha scritto la storia, no? Anche questa è una sfida. Io partirei però da una cosa, come ti sei avvicinato al disegno? Cioè sicuramente da quando eri bambino, però raccontaci, noi siamo curiosi, dici qualcosa, dai. In realtà cioè, disegno da quando sono nato, mi sono avvicinato al disegno perché alla fine ho seguito le orme di mio fratello, lui disegnava per passione e mi sono appassionato, poi lui si è fermato e io ho continuato. In realtà sono nato con la vita in mano, come tutti i disegnatori del resto. Non credo ci sia un disegnatore che ha iniziato a disegnare da adolescente, eccetera. Chiunque lo fa per passione è arrivato a poterlo fare per passione perché è iniziato da quando è nato, ha iniziato a disegnare come tutti i bambini e poi non l'ha più smesso. Ma c'è qualcuno che ti diceva a ogni tuo disegno sei bravo, quanto sei bravo? Ma... Sì, sicuramente. C'era come mentore avevo mio fratello, poi ho superato mio fratello e e quindi sono diventato il mentore di me stesso fino a quando, insomma, non ho frequentato una scuola. Ecco, volevo arrivare a questo. Cioè non è sufficiente la passione, no? Credo che Leonardo da Vinci avesse studiato prima il corpo umano e poi l'ha disegnato e l'ha rappresentato. Senza paragonarci troppo ai maestri, insomma, in qualche modo una scuola serve. Qual è stato il tuo percorso formativo? Ho fatto il diploma, ho conseguito il diploma da liceo artistico, poi ho frequentato per 3 anni la scuola internazionale di comics a Roma, poi ho vinto una borsa di studio, ho fatto uno stage a Cuba. Un anno dopo sono entrato come assistente alla scuola di comics e ora sono insegnante presso questa scuola. Quindi sei un dipendente di comics, insegni la scuola di disegno e nello stesso tempo disegni. Sì, disegno come disegnatore per una casa editrice. Quanto è difficile immaginarsi una storia scritta da un altro e poi per riportarla nelle tavole, no? E in qualche modo poi alla fine uno dice ce l'ho fatta, guarda, eccola qua. No, ma in realtà non è difficile, in realtà non aspetti altro che fare quella cosa, viene naturale, nel senso alla fine non c'è difficoltà, cioè, lo faccio da quando sono nato, quindi sono felice di poter fare quella cosa, quindi non ci sono difficoltà, le difficoltà le incontri durante il percorso. Ma ci può capitare che a volte uno si inceppa tutta la tavola, la disegna, la ributta, la disegna, e poi finché non trova la chiave di lettura e parte fino alla fine? Quello sicuramente, le cose vanno fatte e rifatte. Poi c'è anche nel momento in cui hai fatto una cosa che ti sembra che possa andar bene, l'editore te la scappa. Quindi la devi rifare di nuovo, lì è difficoltoso, lì è difficile, però per il resto alla fine se c'è la passione ti viene tutto molto molto facile, in realtà non è difficile. E i tuoi progetti futuri? Per ora ho avuto qualche risultato, sono abbastanza soddisfatto. I progetti futuri sono sempre puntare sempre più in alto. C'è la voglia di puntare sempre più in alto. Essendo noi una web radio e la gente non può vedere i tuoi disegni perché siamo una radio, cioè, sì, se qualcuno volesse vedere le tue opere dove deve andare? Andare su Google e digitare Fabrizio De Tommaso, primo link utile è il mio. Ok, così abbiamo dato anche le tue coordinate. Vuoi salutare i nostri ascoltatori? Saluto tutti, purtroppo c'è l'influenza dell'alcol, però saluto tutti. Io ti ringrazio per essere stato così disponibile, in bocca al lupo, grazie. Riecco la linea allo studio, già faccio più. Eccoci di nuovo, eccoci qui. Grazie Kempo. Ringraziamo veramente tutti, ringraziamo per l'ennesima volta Sfumature che hanno organizzato la serata, ringraziamo per l'ennesima volta, perché se lo merita comunque, anche il locale sotto casa di Andrea, e ringraziamo soprattutto questa radio che vi tiene sempre compagnia. L'altra Radio Roma è stata online. Adesso vi manda al cinema perché noi andiamo a fare colazione. Bravo, dal maritozzaro tutti quanti a mangiarsi i maritozzi col cappuccino. Se volete conoscerci ci trovate al cornettone a Via Torisi da Gubbio, se è aperto. Bravo, adesso fra un'oretta potete là e chiedete di Mr. Kempo, Mr. Gaspo o Mr. Cogot. Paga tutto Gaspo. Quelli di un'altra Radio Roma. Ragazzi, un'altra Radio Roma vi saluta da sotto casa da Andrea. Un saluto, un abbraccio. Alla Forza prossima Roma, avventura. Ciao. Magica Lazio, merda Roma. La situazione adesso è tornata sotto controllo. Sotto controllo. Sono le 23 e 06 e 06 un'altra Radio Roma. Qui girano tutti con pezzi di carta con su scritto cosa e non cosa dire.